Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. And we have to do something. We have to go see Bill Gates and a lot of different people that really understand what's happening. We have to talk to them, maybe in certain areas, closing that internet up in some way. Somebody will say, oh, freedom of speech, freedom of speech. These are foolish people. We have a lot of foolish people. We have a lot of foolish people. We've got to maybe do something with the internet because they are recruiting by the thousands. They're leaving our country. Insomma, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, qualcuno avrà capito qualcosa di più, qualcuno avrà capito qualcosa di meno. In ogni caso, questo che avete sentito è Donald Trump, candidato repubblicano alle presidenziali negli Stati Uniti del 2016, che ha fatto la sua proposta per risolvere il terrorismo, almeno diciamo, questa è una possibile soluzione, diciamo, divisa in due punti. Prima, nelle ore diciamo di stamattina, ha detto, praticamente ora italiana, che per risolvere il problema del terrorismo bisogna vietare ai musulmani di entrare negli Stati Uniti. Poi qualche ora dopo ha detto che la soluzione può essere chiudere internet. Che ne pensate? Possono essere effettivamente delle soluzioni efficaci queste proposte dal candidato repubblicano alla Casa Bianca, quindi vietare l'ingresso ai musulmani negli Stati Uniti e soprattutto chiudere internet, perché secondo Donald Trump è diventato un veicolo incontrollato di messaggi, di comunicazione, di progettazioni dei terroristi. 349-238-6666 il numero, come sempre lo sapete, di SMS, oppure c'è quello, l'altro canale privilegiato vostro, che è la pagina Facebook di Effetto Notte. Dopo una prima pausa, una piccola pausa diciamo di Sant'Ambrogio, rieccomi con voi per darvi questo quadro, come sempre esauriente, generale, la sera della giornata che è stata, che naturalmente è stata caratterizzata soprattutto dal giubileo, dall'apertura della Porta Santa da parte del Papa. Ne parleremo, così come parleremo anche di questa vicenda di Donald Trump. Poi c'è anche il caso Pistorius, che ha un ulteriore sviluppo. Sapete che nei giorni scorsi c'era stata la condanna più o meno definitiva, che aveva ribaltato quella di primo grado. Quella di primo grado era 5 anni per omicidio colposo, mentre poi è diventata l'accusa nei confronti di Pistorius omicidio volontario e rischia 15 anni di reclusione. Dico rischia perché in realtà si rimanda a una un'ulteriore decisione che dovrebbe arrivare ad aprile, insomma, tempi un po' lunghi anche in Sudafrica per avere delle sentenze, almeno nel senso anche da quando c'è la sentenza del tribunale fino a quando questa cosa viene applicata. Ce ne occuperemo, come ci occuperemo naturalmente anche della Champions League, perché c'è la Juventus in campo contro il Siviglia. Appassionati o non appassionati, insomma, le notizie come sempre sono moltissime, non perdete neanche un istante di Effetto Notte. Anche voi pontalieri che state tornando giù livi oppure tristi forse dal vostro ponte, molti altri magari non sono partiti, stanno lavorando, stanno facendo altro. Partiamo allora con la sintesi della giornata. Giubileo al via, il Papa apre la Porta Santa dopo l'abbraccio con Ratzinger. Basta con la paura, dice, 50.000 persone in una piazza San Pietro presidiata. Anno santo e sicurezza, il livello è molto elevato, assicura il prefetto di Roma Gabrielli, ma nessun allarme specifico nei confronti del Papa. Picco di presenze previsto a Pasqua. Stati Uniti e terrorismo, per sconfiggerlo, propone il candidato repubblicano alle presidenziali 2016, Trump. Vietiamo ai musulmani l'ingresso in America e chiudiamo internet. Non può fare il presidente dell'America, replica la Casa Bianca. Migranti, nuova strage di bimbi davanti alla Turchia, in 6 sono annegati, tra loro anche un neonato, e per la mancata raccolta delle impronte digitale degli immigrati, l'Italia è nel mirino dell'Unione Europea. Banche salvate, il ministro Padoan dice il sostegno agli obbligazionisti è una misura umanitaria. Elezioni comunali, le primarie del centrosinistra a Milano ci saranno il 7 febbraio e intanto il capoluogo lombardo vince il premio come città europea più facile per i disabili. Champions League, la Juve a Siviglia per il primo posto nel girone. Siamo quindi dalla notizia che ha dominato questa giornata sin dall'inizio, dall'alba si può dire, con le persone che hanno cominciato ad arrivare in piazza San Pietro. Papa Francesco ha dato quindi il via libera all'anno santo, aprendo questa mattina la porta santa della Basilica di San Pietro, ha dato il via ufficiale insomma al giubileo straordinario della misericordia, porta simbolo quella di San Pietro per i cristiani del passaggio dal peccato alla grazia. In piazza tra le 50.000 e 70.000 persone, molte meno comunque di quante ci si aspettava. tasse, naturalmente dovuto alla paura, anche se Papa Francesco ha detto basta avere paura, però diciamo gli attentati di Parigi hanno lasciato il segno. Il prefetto Gabrielli, prefetto di Roma, ha detto che la sicurezza è stata molto alta, le misure di sicurezza continueranno così anche se non si hanno segnali che il Papa possa essere un obiettivo di attentati terroristici. E di come si è svolta questa giornata in una Roma blindatissima, del significato di questo giubileo, poi torniamo a parlare tra poco. Tra l'altro c'è da dire che per quanto riguarda la sicurezza ci sono ben occultati, spesso ci si dimentica, si chiamano gli angeli questi della 762, ci sono sempre loro i tiratori scelti, angeli custodi in calibro 762, in questi frangetti vengono chiamati in campo i migliori della sicurezza, partendo dall'intelligence che lavora silenziosamente dietro le quinte fino agli agenti e ai militari che operano invece visibilmente sulla strada, insomma i tiratori scelti che si trovano appostati sui tetti, tra i balconi, non si vedono, ma insomma è stato spiegato un po' quali sono almeno le misure principali. E poi Alfano, che ha twittato, il ministro dell'interno, scala e giubileo, perché sapete che ieri c'è stata anche la prima della scala a Milano, il 7 dicembre è la data classica, con la Giovanna d'Arco di Verdi, e anche lì diciamo che si temeva possibili tensioni, invece è andato tutto liscio. Allora Alfano ha detto scala e giubileo 2015 è andato tutto bene, due giornate impegnative ma positive, grande lavoro delle forze dell'ordine, grandi italiani forti e positivi, così ha detto Alfano. Stati Uniti e terrorismo, per sconfiggerlo, vi dicevo, propone il candidato repubblicano alle presidenziali 2016, Trump, propone: vietiamo ai musulmani l'ingresso in America e chiudiamo internet. Non può fare il presidente, replica a questo punto la Casa Bianca, ma mi pare che anche i repubblicani sembrano aver preso un po' le distanze da Trump. Marco Balsania, corrispondente del Sole 24 Ore dagli Stati Uniti, ciao Marco. Ciao a voi. Sì, è così, come dicevi, questa volta diciamo data Trump hanno preso le distanze anche gran parte dei candidati, gli aspiranti repubblicani alla presidenza 2016, dichiarando di fatto che ha esagerato, l'hanno definito xenofobo, razzista, squilibrato nel caso di Jeb Bush, questa è stata la parola usata da Jeb Bush, e comunque diciamo una proposta nell'insieme definita inaccettabile. Ecco, questo non vuol dire che Trump però sia destinato a cadere nei sondaggi, in realtà è riuscito finora, e chissà che riesca anche con questa sua uscita, a far leva sulla su così una parte sicuramente dell'elettorato repubblicano, che ha paura, che si sente assediata, che ritiene che la Casa Bianca sia troppo timida nei confronti del terrorismo, nei confronti della sicurezza nazionale, e questo diciamo questa base elettorale un po' diciamo iper-ultraconservatrice e popolare rimane affascinata da questo, rimane convinta da questo messaggio di Trump, tant'è che Trump stesso ha difeso le sue affermazioni, oggi non ha fatto alcuna marcia indietro, anzi persino paragonate a quelle alle decisioni di Roosevelt durante la Seconda Guerra Mondiale, quando in una delle pagine più nere della storia americana definì come stranieri nemici migliaia di giapponesi, di americani, anche italiani e tedeschi, creando poi anche i famosi notori campi di internamento negli Stati Uniti, appunto per questi cittadini nemici interni, definiti appunto nemici interni degli Stati Uniti. Fu poi tra l'altro uno stesso presidente repubblicano, Ronald Reagan, a firmare una legge per scusarsi di questa pagina della storia americana, e anche per risarcire i discendenti delle vittime. Marco, tu per caso sei in uno di quegli ascensori che arrivano al 362esimo piano, che ogni tanto fanno plin ton? Sì. Sono nell'altrettanto famoso sistema di trasporto di massa di New York. Ah, ecco, in metropolitana allora. Ciao. È rumoroso, esatto. Ciao Marco Balsani e buon viaggio, buona continuazione allora. Ciao Marco, salutaci Trump, durissimi anche le reazioni dalla Francia, dal Regno Unito, con Cameron, primo ministro britannico, ha detto inutile, semplicemente sbagliato il suo intervento, e poi anche Valls, primo ministro francese, e vi raccontava Marco Valls sania anche gli stessi repubblicani. Voi che cosa ne pensate? Per esempio, che reazione ci sarebbe se si chiudesse internet? Voi ci pensate? Vi ricordate come eravate prima di internet e come vivevate? C'è un'altra cosa interessante che riguarda invece un rapporto sull'ISIS, sugli introiti che ha l'ISIS. Introiti per 80 milioni di dollari al mese, non all'anno, al mese, 80 milioni di dollari. Il sedicente Stato Islamico può contare su queste entrate mensili, 80 milioni di dollari, in gran parte da tassazioni e vendite di petrolio e gas, mentre il numero dei foreign fighters, cioè di coloro che da vari paesi vanno a combattere per sostenere l'ISIS, a far parte delle sue file, è quasi triplicato negli ultimi 18 mesi e pare che ci siano moltissimi proseliti attraverso proprio internet online. Ecco perché ha fatto questa proposta, diciamo una gaffa per molti versi, Donald Trump. Però chissà che non ci sia invece qualcuno che lo appoggi. Per esempio tra voi al 349-238-6666 il numero per i messaggi, oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che lo sapete, è sempre lì costantemente per voi giorno e notte. E adesso parliamo invece dei migranti con questa nuova tragedia. Nonostante l'inverno sia la stagione meno adatta, le rotte del mare non smettono di essere attraversate da profughi in fuga, molti dei quali continuano a trovare la morte. Due i naufragi, oggi tragici perché costati la vita ai più indifesi, i bambini. Sei di loro, tra cui un neonato, sono morti intorno alle 2:30 di mattina a causa del rovesciamento del gommone su cui viaggiavano. Il naufragio al largo di Cesme, nella provincia di Smirne, sulla costa Egea della Turchia. L'imbarcazione carica di profughi afghani, non si sa quanti, stava cercando di raggiungere la Grecia. 8 persone sono state salvate dalla guardia costiera turca, che prosegue nella ricerca dei dispersi. Nelle stesse ore il corpo di una bimba siriana di 5 anni è stato ritrovato sulla spiaggia di Pirlanta, sempre a Cesme. La piccola, Saida Ali, è una delle vittime di un naufragio di alcuni giorni fa. Ma un altro disastro del mare si è registrato al largo delle coste africane, a sud del Marocco. Un'imbarcazione partita da Bohador nel Sahara occidentale e diretta alle isole Canarie si è ribaltata a causa del maltempo, provocando l'annegamento di almeno 11 subsahariani. Al momento non si conosce la sorte delle altre 28 persone a bordo, né la nazionalità dei migranti. Ai soccorsi sta partecipando anche un aereo spagnolo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il tutto mentre la Commissione europea intende aprire una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e anche di altri paesi per non aver raccolto e inserito nel sistema Eurodac, si chiama questo sistema, le impronte digitali dei migranti richiedenti asilo. La procedura nei nostri confronti e anche di altri paesi, salvo ripensamenti dell'ultimo minuto, sarà aperta giovedì, quindi tra due giorni. Per la politica italiana, la riunione della coalizione di centrosinistra che si è tenuta oggi pomeriggio ha fissato per il 7 febbraio le primarie per la scelta del candidato sindaco di Milano. Quindi le primarie del centrosinistra per Milano ci saranno il 7 febbraio. Al contempo si è appreso, è stata stabilita la fase di raccolta firme a sostegno delle candidature dal 12 dicembre, quindi partiranno tra pochi giorni, sino al 12 gennaio. Passiamo all'economia. Non sarà in contraddizione con le norme europee il provvedimento a cui sta lavorando il governo per una forma di sostegno ai risparmiatori delle fasce più deboli, titolari di obbligazioni convertibili che hanno subito perdite a seguito della recente ristrutturazione di Banca Etruria, Banca Marche, Cari Ferrara e Cari Chieti. Lo ha detto oggi a Bruxelles il ministro dell'economia Padoan. Si tratta di misure di tipo umanitario che vanno incontro alle necessità delle fasce più deboli di risparmiatori che sono stati coinvolti da questa operazione di risoluzione. Non ha nulla a che fare con l'operazione finanziaria in quanto tale. L'Europa potrebbe avere delle obiezioni? L'Europa potrebbe avere delle obiezioni se questa misura fosse considerata parte dell'operazione di risoluzione, ma non lo è e sono due cose completamente separate. I listini europei intanto hanno chiuso in calo, penalizzati dai dati deludenti sulle esportazioni cinesi e dal prezzo del petrolio sempre sotto i 40 dollari al barile, nonostante il leggero recupero di metà pomeriggio. Parigi, Londra e Francoforte hanno ceduto fra il punto e due punti percentuali. A Piazza Affari il FTSE MIB ha registrato una flessione del 2,26%. E poi c'è la vicenda di Pistorius. È arrivata questa mattina la decisione dei giudici di Pretoria sulla richiesta dell'ex campione olimpico Oscar Pistorius, concessi domiciliari ma con alcune condizioni di cui vi dicevo parleremo più tardi. Adesso torniamo sulle notizie italiane con la cronaca. Non doveva essere in Italia Mohamed Jella, il tunisino di 27 anni ricercato in tutta Italia per la morte di Alessia Della Pia, la donna di 39 anni ritrovata senza vita domenica pomeriggio nell'androne del suo palazzo alla periferia di Parma. Al nordafricano, riferisce la Gazzetta di Parma, era stato notificato il 14 settembre un ordine di espulsione dal territorio italiano, aveva finito di scontare una condanna per rapina. Parliamo di musica. Eagles of Death Metal, che sono il gruppo che suonava al Bataclan quando poi ci furono gli attentati di Parigi con tanti morti. E dopo la performance di ieri sono tornati sul palco con gli U2 all'Accor Arena di Parigi. Gli Eagles of Death Metal sono tornati davanti al Bataclan di Parigi e tutti i componenti della band californiana erano in lacrime sotto la pioggia, hanno depositato dei fiori davanti alla sala concerti in cui si stavano esibendo appunto prima dell'esibizione dei terroristi. Per chiudere c'è il calcio, a che punto sarà la Juventus in Champions con le Siviglia, Dario Ricci? Buonasera Roberta, siamo Ciao. Al 32esimo del primo tempo a Siviglia, risultato ancora di 0-0, ma partita molto, molto aperta, molto vivace, con la Juventus che ha iniziato bene, con qualche buona occasione per Morata, Dybala e Sturaro, però poi al 19esimo doppia prodigiosa parata di Buffon su Llorente, l'ex juventino, e con Oprianca, ma al 25esimo poi Bianconeri veramente a un passo dal vantaggio, ed è clamoroso l'errore di Morata che da due passi non è riuscito a battere Sergio Rico dopo uno splendido assist di testa di Dybala, davvero clamoroso l'errore dell'attaccante spagnolo della Juventus, ma al 31esimo pochi minuti fa ancora Buffon ha salvato la porta bianconera con un bel intervento sul colpo di testa di Koke. Nell'altra gara del gruppo D siamo sull'1-1 tra Manchester City e Borussia Mönchengladbach, quindi stando così le cose la Juventus chiuderebbe al primo posto nel girone, ma siamo ancora all'inizio di questa lunga serata di Champions. E allora proseguirai, sentiremo ancora da Ricci per aggiornarci. Intanto, prima di leggere qualche messaggio velocemente vostro sulla pagina Facebook di Effetto Notte e anche gli sms al 349-238-6666, vi aggiorno su una notizia che è arrivata pochi istanti fa, che riguarda ancora una volta San Bernardino in California. Sapete dove alcuni giorni fa c'è stata una strage, quella coppia di killer legati all'ambiente di integralisti islamici, dove ci sono stati 14 morti. Leggo adesso: massima allerta San Bernardino in California, dove un allarme bomba sta interessando sia un liceo sia un centro medico. Vi ricordo che la strage c'era stata in un centro di disabili. Entrambi gli edifici, spiega la polizia locale, sono stati fatti evacuare. Insomma, purtroppo non ci si annoia mai da questo punto di vista, c'è sempre qualche disgraziato in cerca di distruzione, di morte. Leggevo i vostri messaggi invece rispetto a quello che ha detto Donald Trump. Serena dice sulla pagina Facebook: ha perso Trump una buona occasione per stare zitto, ha un certo non so che di demagogico il discorso di Trump, soprattutto per quanto riguarda la prima affermazione, quella di vietare l'ingresso agli islamici negli Stati Uniti. Ti dirò, se facesse chiudere internet ci sarebbe, credo, un'insurrezione popolare. Poi altri vostri messaggi anche su altre 49238-6666. Luca da Pavia dice: è fuori dal mondo. E Clotilde: ma perché si deve prendere seriamente quel pagliaccio di Trump? Non capisco chi gli va dietro. Va bene che dagli americani ci si può aspettare di tutto. Anch'io mi aspetto da voi molti messaggi, continuano ad arrivare su tutti e due i canali. Immaginiamo chi sta viaggiando, perché credo che siano in molti. Vedevo 100 km di fila oggi dal Trentino. Speriamo che si sia un po' sbrogliata la situazione. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, sentite quanti ancora stanno viaggiando, molti naturalmente ascoltano da casa, dal lavoro, dove si trovano in giro per la città, molti però, dicevamo, avete sentito dalla viabilità quanti ancora sono in viaggio. Oggi si parlava di file incredibili al Trentino Alto Adige in particolare. Se state viaggiando, mi raccomando, comunicate mentre vi annoiate lì fermi ad amici e conoscenti e parenti che c'è Effetto Notte, di sintonizzarsi su Radio 24 con tutte le notizie della giornata, con gli ospiti che cominceremo a incontrare tra poco e anche ogni tanto con gli aggiornamenti giustamente per la viabilità. Leggevo sulla pagina Facebook di Effetto Notte, dove stanno arrivando i vostri messaggi di commento su quanto ha detto oggi Donald Trump, candidato alle presidenziali americane 2016. Billy dice: evidentemente costui vuole i voti degli americani che la pensano come lui, affidandogli anche le sorti del paese. Stefano dice: i problemi degli Stati Uniti sono molto diversi da quelli europei. Sul fatto di oscurare internet no, non sono d'accordo. Sul fatto di limitare l'accesso ai musulmani potrebbe servire, ma sarebbe ancora più utile controllare quelli che già ci sono e soprattutto i convertiti convertiti che molto spesso si rivelano più fanatici e pericolosi dei musulmani. Così dice Stefano. Poi altri messaggi anche al 349-238-6666. Cesare dice: magari a tempi alterni l'uso di internet, ma lo bloccherei a sorpresa, mettiamoli in difficoltà. Queste le vostre proposte. Adesso vi ricordo velocissimamente le notizie principali, se avete acceso in questo momento anziché puntualmente alle 21 su Effetto Notte. Il Papa apre la porta santa, basta con la paura, dice poi l'abbraccio con Ratzinger. 50.000 persone in una piazza San Pietro presidiata. Governo verso il deficit al 2,4% per le spese per la sicurezza e senza via libera dall'Unione Europea. Intanto il ministro Padoan annuncia misure umanitarie per i risparmiatori delle banche che sono state salvate. Migranti, l'Italia verso una procedura di infrazione per non aver preso le impronte digitali ai richiedenti asilo. E poi un nuovo naufragio in Turchia, sulla spiaggia il corpo di una bambina, ma sono 6 bambini annegati. L'ultima di Trump, appunto, chiudere internet e stop ai musulmani. La Casa Bianca dice non può fare il presidente. Sdegno anche di Cameron, primo ministro britannico, del primo ministro francese Valls. L'ISIS ha introiti per 80 milioni di dollari. Questo è un report di autorevoli centri di studi americani. 80 milioni di dollari al mese, sia chiaro. E poi comunali, le primarie del centro-sinistra a Milano ci saranno il 7 febbraio. E poi il mistero, questa è un'altra notizia, della Gioconda sotto Monna Lisa, un'altra donna. Questo per uno studioso francese, Pascal Cotte. E questa la porta del Signore. Apritemi le porte della giustizia. Avete sentito l'apertura naturalmente così suggestiva della Porta Santa oggi, quindi del via al Giubileo, all'anno santo della Misericordia che ha dato Papa Francesco a Roma, alla Basilica di San Pietro, con un gesto fisico e fortemente simbolico questa apertura, fortemente dico anche perché il Papa ci ha dovuto mettere una certa forza, non è riuscito subito a aprire questo portone effettivamente così pesante, preceduta questa apertura da un forte abbraccio proprio di forza anche con il Papa emerito Benedetto XVI. Questo è successo intorno alle 11:15, ma la gente ha cominciato i varchi per far accedere le persone, i pellegrini in piazza San Pietro, sono stati aperti intorno alle 6:30, quindi già dall'alba si muovevano le persone, alle 9:30 poi la messa del Papa e poi verso le 11 qualcosa appunto l'apertura della Porta Santa. Ma un po' di cronaca ce la fa il nostro Vincenzo Miglietta da Roma, che ha anche fatto lo speciale, quindi ha seguito tutta la giornata, questa giornata eccezionale. Vincenzo. Sì, buonasera, una giornata eccezionale. Partiamo allora dalla fine, dalle parole del prefetto Gabrielli, prefetto di Roma, che ha fatto un po' un bilancio intorno al tardo pomeriggio sulla prima giornata del Giubileo sul fronte logicamente della sicurezza. Incrociando le dita, Gabrielli ha detto: è andato tutto bene, ma è un impegno quello del Giubileo che ci prenderà tutto l'anno, massima sicurezza su tutti i mesi del Giubileo. E oggi questa massima sicurezza, Roberta, si è vista a Roma in piazza San Pietro con dei filtri sin dal primissimo mattino per i fedeli che volevano accedere a piazza San Pietro, ma anche in tutto il resto della città, che onestamente forse l'abbiamo vista più vuota del solito, forse causa anche il lungo ponte di cui parlavi poc'anzi, anche per le file. Vincenzo, perdonami se ti interrompo, ma visto che lo citavi, Gabriele, citavi proprio un numero di persone un po' inferiori alle aspettative, sentiamo cosa ha detto in proposito proprio il prefetto Gabrielli. Il ponte nella città di Roma ha sempre un fascino particolare e l'8 di dicembre cadeva in un ponte dove la gente, la città in generale si è un po' svuotata e poi i numeri inevitabilmente sono diminuiti. Non parlerei di flop perché noi abbiamo sempre parlato di una forbice tra 50 e 100.000 ed eravamo sempre molto convinti che fosse più nella parte bassa e non nella parte alta. Ecco, diciamo che in parte è anche dovuto agli attentati, no? Si poteva immaginare questo, Vincenzo Miglietta, che un pochino avrebbe frenato. Infatti si poteva immaginare, giustamente, quindi questa paura che potrebbe aver frenato qualcuno nel venire a Roma, ma ricordiamo la sostanziale differenza con il giubileo tradizionale, l'ultimo, quello del 2000, dove per avere l'indulgenza cosiddetta, per poter dire di aver partecipato al giubileo, era fondamentale arrivare a Roma, mentre quest'anno il giubileo straordinario della misericordia si potrà fare anche nelle proprie diocesi, un po' in tutto il mondo, quindi anche questo aspetto va considerato. Senti, a proposito invece, sempre Gabrielli, di possibili rischi per il Papa, sentiamo anche quest'altro passaggio. Non c'è un'indicazione che al momento, per fortuna, individui il Santo Padre come un possibile obiettivo, quindi da questo punto di vista non c'è nessun tipo di allarme, non c'è nessun tipo di allarme specifico, generale, men che meno rivolto alla figura del Santo Padre. Così ha detto Gabrielli, quindi tra Scala ieri, la prima della Scala, e oggi l'apertura del giubileo della Porta Santa, per il momento insomma le cose sono andate abbastanza linearmente, Vincenzo? Sì, è andato tutto abbastanza linearmente. Per quanto riguarda però la persona del pontefice, di Papa Bergoglio, qualora anche queste minacce vi fossero state, devo dire che come al solito ci ha abituati il pontefice, non le prende in considerazione. Anche oggi, uscito dal Vaticano per il tradizionale omaggio all'Immacolata, alla statua dell'Immacolata in Piazza di Spagna, è arrivato con l'utilitaria che tutti abbiamo imparato a conoscere, da lì è andato a Santa Maria Maggiore con una scorta imponente, ma sostanzialmente in questa macchina semplice, di fatto non blindata, per cui il messaggio maggiore di distensione è arrivato proprio dal pontefice. Grazie Vincenzo Miglietta. Ciao. Grazie. Vincenzo. E adesso invece con il nostro Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore. Carlo, il significato di questo giubileo in particolare rispetto a quello del 2000, il fatto anche che Papa Francesco è stato coerente con il suo modo, no, di interpretare il suo ruolo, il suo percorso, nel senso non ci sono stati grossi orpelli, trionfalismi, mi pare che sia stato tutto abbastanza così, per quanto si possa parlare di semplicità in questi riti, che dici? Sì, allora sicuramente, ciao, anzitutto, sì, sicuramente la cerimonia è stata sobria, ma diciamo, il significato, secondo me, forte della giornata è proprio questo, cioè la misericordia che entra al centro, lo era già, le periferie, tutta questa, diciamo così, l'agenda di Bergoglio si è, come dire, dipanata in questi quasi 2 anni e 3 quarti di pontificato attraverso, diciamo, una serie di messaggi forti, chiari e anche azioni. La misericordia entra al centro, la misericordia che a questo punto diventa anche, come dire, un messaggio non solo, come dire, religioso, ma anche civile, cioè entra, come dire, si innerva un po' in tutto il messaggio planetario. Questo è, la data di oggi è fondamentale. Se vogliamo dare un significato anche in questo, proprio c'è secondo me, ma secondo molti, c'è un prima e un dopo oggi nella storia della Chiesa, perché oggi il giubileo della misericordia segna un punto di confine, anche perché oggi era l'anniversario dei 50 anni del Concilio Vaticano II, che anche quello è un evento simbolo della Chiesa, la Chiesa che ha guardato avanti nel millennio, diciamo, e quindi, diciamo, le due cose si mettono insieme. E quindi oggi il Papa proprio così è come dire, in questo pontificato è punto focale, e su questo lui ha puntato molto, diciamo, della sua azione, e quindi l'apertura, la Porta Santa è la cerimonia che però ingloba il tutto, ecco, secondo me, e questo sarà un po' quello che lascerà la traccia. Durerà un anno, però diciamo così, la preparazione che lo ha preceduto è stata fortissima, il viaggio in Africa, per esempio l'apertura della Porta Santa anticipata in Centro Africa, la capitale Bangui, che credo il 95% del mondo ha scoperto il nome Bangui grazie al Papa, che altrimenti non avrebbe saputo. Per dire, quindi questo zona è poverissima, Carlo, ma poi effettivamente si dice che il vero anno santo è iniziato da lì? E quella è stata l'apertura. Sì, nel senso, sì. Allora diciamo che siccome non c'è una codificazione, come dire, immutabile, i papi che ogni volta possono cambiare volta per volta, l'ha aperta lì, e quella valsa per il Centro Africa e teoricamente per tutto, naturalmente per il resto del mondo è oggi. Poi come diceva giustamente Miglietta un attimo fa, si può fare in tutto il mondo il giubileo per la prima volta in ogni diocesi del mondo, in ogni santuario del mondo, e questa è la novità proprio, in ogni carcere del mondo, cioè i carcerati non potendo uscire possono fare la porta, ogni porta di una cella di tutto il mondo è porta santa, per chi ci crede naturalmente, qui stiamo parlando sempre per chi, diciamo così, pratica la religione cattolica, però diciamo, è stata quella l'azione anche forse, e diciamo, sono tantissime novità, ce n'è una ogni giorno di novità, e se posso dirne una che secondo me poi sì. Anche domani sul Sole 24 Ore lo scriviamo, domani il Sole dedicherà tantissimo spazio di approfondimento molto insomma così puntuale su tutte queste questioni. C'è stato anche un forte segno di continuità con i precedenti papi, ha abbracciato il papa precedente, lo ha citato, ha chiesto un applauso per lui all'Angelus, ha citato Giovanni Paolo II di fatto quando ha detto non abbiate paura, se andiamo un po' indietro nel tempo era diciamo il motto forte di Giovanni Paolo II, non abbiate paura, ha citato Paolo VI, il concilio è una questione di Giovanni XXIII, quindi c'è tutto, quindi un percorso, lui dice innovo ma la tradizione ce l'ho dentro, quindi anche questo ha un significato insomma non secondario in questa giornata. Sentiamola questa frase del Papa a proposito della paura. Attraversare la porta santa dunque ci faccia sentire partecipe di questo mistero d'amore, di tenerezza. Abbandoniamo ogni forma di paura e di timore, perché non si addice a chi è amato. Viviamo piuttosto la gioia dell'incontro con la grazia che tutto trasforma. Carlo Marroni, quindi vediamo se questo giubileo trasformerà la Chiesa, ma una curiosità, ogni quanto un Papa può indire un giubileo? Così, non c'è una regola, dobbiamo partire da un principio, un Papa può decidere qualsiasi cosa, in qualsiasi momento, su qualsiasi argomento. Beato lui. Detto questo, ecco, non è che i Papi diciamo così sono, diciamo, si basano. L'ultimo giubileo straordinario, i giubilei da alcuni secoli si celebrano ogni 25 anni. L'ultimo fu nell'83, quello straordinario intendo, fu nell'83 sempre di Giovanni Paolo II, poi lo fece appunto quello grande nel 2000, il precedente era stato nel 66 Paolo VI, per dire, quindi ogni tanto vengono fatti. Questo come caratteristica di giubileo straordinario è che è a tema. Non è la prima volta che c'è un tema, e la misericordia. Esatto, questa è la novità, diciamo, una delle tante novità di questo giubileo. Grazie Carlo Marroni. Grazie a te. Ciao Carlo. E prima di lasciarci brevemente, vedo un aggiornamento su San Bernardino in California. È rientrato, per fortuna, l'allarme nel liceo e nel centro medico. Si pensava un allarme bomba dopo che c'era stato l'attentato giorni fa, era l'allerta di poco fa, ma questo allarme è rientrato. I vostri messaggi ancora prima di lasciarci per una breve pausa sulla pagina Facebook di Effetto Notte, per esempio. Elena dice: io propongo l'abolizione dei viaggi in aereo e in nave, i treni sono ok perché non possono andare sugli oceani, poi propongo anche l'abolizione della corrente elettrica con ritorno alle candele. Insomma, Elena fa un po' di ironia sulla proposta di Trump, Donald Trump, il candidato repubblicano alle presidenziali 2016, a proposito di chiudere internet per battere il terrorismo. Sergio: è proprio vero che la mamma di Cretini è sempre incinta. Sergio, tra l'altro, per fare anche un po' di femminismo ti dico che anche il padre estremamente prolifico dei Cretini, dice: dopo Bush padre, soprattutto figlio, si pensava che gli americani avessero toccato il fondo, ma al peggio non c'è mai fine, non c'è fine neanche Effetto Notte, perché ci risentiamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, sempre Roberta Giordano con voi, che stiate viaggiando, state stirando, che stiate mangiando, lavorando. Mi raccomando, non perdete mai Effetto Notte a quest'ora, dalle 21 alle 22. Tra poco vi ricordo le notizie principali. Vedo anche state scrivendo in WhatsApp, sempre al 349-238-6666. Poi c'è comodamente anche la pagina Facebook di Effetto Notte, che è costantemente lì per voi e potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, di giorno, di notte. Non capisco, dice questo ascoltatore, il concetto di flop usato da Gabrielli. Mica stiamo parlando di un evento stile Expo che si valuta nel numero di biglietti venduti, però nel numero di persone presenti sì, si può dire. Poi non ha parlato di flop, ha detto non possiamo parlare proprio di flop perché effettivamente c'era il ponte dell'8 dicembre, Roma si svuota, però abbiamo detto che inevitabilmente hanno inciso anche un po' gli attentati di Parigi, no? Sulla tensione, sulla paura di essere presenti a un evento così di massa. Poi Ritornando alle frasi di Trump sul fronteggiare il terrorismo chiudendo internet e non facendo entrare più musulmani negli Stati Uniti, Renzo da Imperia scrive: Trump dice delle assurdità, con 2 milioni di islamici che sono in America come fa a ragionare così, e su internet dice delle sciocchezze. Ma quali sono le notizie principali della giornata? Eccole qua. Giubileo al via, il Papa apre la porta santa dopo l'abbraccio con Ratzinger, basta con la paura, dice, 50.000 persone in piazza San Pietro presidiata, anno santo e sicurezza, il livello è molto elevato, assicura il prefetto di Roma Gabrielli, ma nessun allarme specifico nei confronti del Papa, picco di presenza è previsto a Pasqua. Stati Uniti e terrorismo, per sconfiggerlo propone il candidato repubblicano alle presidenziali 2016, Trump, vietiamo ai musulmani l'ingresso in America e chiudiamo internet, non può fare il presidente, replica la Casa Bianca. Migranti, nuova strage di bimbi davanti alla Turchia, in 6 sono annegati e per la mancata raccolta delle impronte digitali degli immigrati l'Italia è nel mirino dell'Unione Europea. Banche salvate, il ministro Padoan dice il sostegno agli obbligazionisti è una misura umanitaria. Elezioni comunali, le primarie del centrosinistra a Milano ci saranno il 7 febbraio. Champions League, la Juve a Siviglia per il primo posto nel girone, per il momento però la partita continua 0-0. Mentre come procede la vicenda di Oscar Pistorius, ex campione paralimpico, conoscerà il suo destino il 18 aprile. Sapete che c'è stato un processo per aver ucciso la fidanzata in un primo grado, è stato condannato a 5 anni per omicidio colposo, quindi non volontario, e li stava scontando agli arresti domiciliari. Poi c'è stata la sentenza della Corte d'Appello pochi giorni fa che ha ribaltato quella del primo grado, condannandolo alla pena, per il momento definitiva, per omicidio volontario. Potrebbe rischiare 15 anni, dovrebbe arrivare ad aprile la sentenza. Ne parliamo con Lorenzo Simoncelli, perché gli stati sono stati concessi però comunque gli arresti domiciliari, vero Lorenzo? Dal Sudafrica ci parla Lorenzo, ciao. Ciao, buonasera Roberta. Sì, diciamo che Oscar Pistorius oggi in una mini udienza gli è stata concessa la libertà su cauzione dopo appunto la condanna in appello della scorsa settimana. Una libertà su cauzione pagata a basso prezzo, è il caso di dire, perché solamente 650 euro sono stati depositati al Tribunale di Pretoria. Pistorius e i suoi avvocati hanno giustificato che tutto quello che rimane, Oscar Pistorius, che bisogna ricordare in circa 2 anni di processo ha speso più o meno 1,5 milioni di euro in spese legali. Una libertà che naturalmente avrà dei vincoli ben precisi. Oscar Pistorius potrà uscire solamente tra le 7 e le 12 di mattina, quindi fino a mezzogiorno, e non potrà allontanarsi dalla casa dello zio a Pretoria, dove appunto rimarrà per un raggio massimo di 20 chilometri. Naturalmente non potrà neanche viaggiare, dato il pericolo di fuga, e il passaporto gli è stato infatti sottratto, è stato consegnato alle autorità. Anche il braccialetto elettronico, no? Sì, diciamo che si cercherà di monitorare in qualche modo questi spostamenti che farà attraverso appunto un braccialetto elettronico a GPS collegato. Adesso bisognerà capire se questo avverrà tutti i giorni o solamente per spostamenti più complessi e particolari che svolgerà il campione paralimpico. Aggiungo solo che la madre di Riva Steenkamp, appunto la modella che lui ha ucciso, dice di averlo perdonato, di non provare rancore ma di volere giustizia, e che quindi questa sentenza lei l'attende appunto come finalmente un coronamento di un po' di giustizia per Riva. Ci sentiremo più in là, il 18 aprile dovrebbe arrivare appunto questa sentenza e capiremo se poi ci sarà ricorso, no Lorenzo? Sì, diciamo che il ricorso ci sarà sicuramente. Adesso da parte della difesa. Sì, da parte della difesa, i legali di Pistorius hanno 15 giorni di tempo per appellare il verdetto d'appello alla Corte Costituzionale, che è la più alta carica giudiziaria in Sudafrica, dato che non esiste la Cassazione, e sarà appunto il verdetto definitivo, perché sarà la Corte Costituzionale a decidere se prendere in carica o meno appunto questa istanza, e sarà lei a decidere quello che sarà il futuro a questo punto definitivo di Oscar Pistorius, che lo dovremmo sapere il 18 aprile del prossimo anno. Ci rimandiamo quindi a quell'appuntamento. Grazie Lorenzo Simoncelli da Sudafrica. Ciao Lorenzo. Viabilità. Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Continuano i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, ma vi dico velocemente che le notizie principali sono il giubileo che è partito oggi col Papa che ha aperto la Porta Santa nella Basilica di San Pietro dopo l'abbraccio con Ratzinger. Basta con la paura, ha detto, tra le 50.000 e 70.000 persone in una piazza San Pietro blindata, anno santo e sicurezza, il livello è molto alto, ha assicurato il prefetto di Roma Gabrielli. E poi qualcuno dice butade di Donald Trump, candidato repubblicano alle presidenziali 2016, che ha proposto per risolvere la questione del terrorismo: vietiamo ai musulmani l'ingresso in America e chiudiamo internet. E adesso parliamo di una delle maggiori sfide per le nuove generazioni: fondare nuove regole per un'economia più giusta ed efficiente che ponga donne e uomini sullo stesso piano. Una sfida in cui crede molto Bina Agarwal, professoressa di sviluppo economico e ambientale all'Università di Manchester, che è stata ospite di Edison Open for Expo, per parlare di istituzioni, proprietà agricole e disuguaglianza di genere nel paese in via di sviluppo. The important thing about land, of course, is it's the most important productive asset for agriculture. La cosa più importante quando parliamo di terreni agricoli è che essi rappresentano uno dei beni fondamentali delle culture agricole. Il volto dell'agricoltura è donna. I numeri sono in crescita e col tempo c'è stata una femminilizzazione, per così dire, del settore agricolo. Sempre più uomini, rispetto alle donne, lasciano i lavori agricoli per altri settori che non hanno a che fare con fattorie e coltivazioni, che possono essere in aree rurali o in piccoli centri abitati. In Asia, per esempio, il 40-50% del lavoro agricolo viene svolto da donne e la percentuale è costantemente in crescita. Ed è a queste donne che viene affidato anche l'allevamento, dal momento che anche qui sono sempre gli uomini ad abbandonare questo tipo di lavoro. Ma nonostante ciò, le donne devono superare diversi ostacoli e maggiori difficoltà per l'accesso alla terra, al credito, a beni di prima necessità come l'acqua, e a loro viene anche negata la possibilità di qualunque tipo di assistenza. Quindi, se ci sono delle novità sulle coltivazioni o sulle pratiche agricole, i servizi di assistenza si occupano di informare gli agricoltori uomini, con l'eventualità che l'informazione non venga poi condivisa con le donne che fanno agricoltura. Queste donne hanno una minima assicurazione sui raccolti e un accesso iniquo al mercato. A ciò si aggiunge il fatto che ci sono anche delle restrizioni sociali, specialmente in alcune regioni. In addition, there are social restrictions on public interaction, especially in some regions. Bina Agarwal, sentiamo ancora, è anche uno dei maggiori esponenti di un movimento noto come ecofemminismo, una tesi secondo cui le donne dei paesi in via di sviluppo, proprio in virtù dello stretto rapporto con la terra, possono difendere meglio le risorse naturali. Ma non sempre questo si realizza, come avete in parte sentito. Nelle comunità rurali, poi, oltre ai terreni agricoli di fondamentale importanza, sono anche le foreste. Bina Agarwal spiega perché e come mai anche in questo caso le norme sociali tendono a penalizzare le donne. Although the rural households depend on forests, sebbene gli abitanti delle zone rurali dipendano dalle foreste per il proprio fabbisogno quotidiano, i poveri di queste aree dipendono da esse in particolar modo per il cibo, per il combustibile naturale, per le fibre, la frutta, l'acqua potabile, le erbe medicinali e così via. Ma c'è una disparità di genere anche in questo caso? Sì. Esiste. Le donne che abitano in zone rurali dipendono dalle foreste in maniera maggiore rispetto agli uomini, in maniera diversa e in maniera più pesante a causa delle norme sociali. Non solo le donne devono occuparsi di cucinare, devono anche occuparsi di recuperare il combustibile per cucinare il cibo. C'è una divisione di genere per quel che riguarda il lavoro, così come per quel che riguarda la disponibilità economica. Se foste voi a dovervi occupare di trovare il combustibile, direste: ok, ho i soldi, vado al supermercato. Ma se non avete denaro e non potete contare su disponibilità economica, potete rivolgervi solo alla comunità per ottenere quello che non può essere comprato. Quindi, quando le foreste muoiono, si impoveriscono o vengono ridotte nelle loro dimensioni. A subirne maggiormente le conseguenze sono comunque le donne. Perché? Perché esiste una differenza di genere anche nel tempo necessario per la raccolta dei beni di prima necessità. Se avete a disposizione una foresta degradata, serve più tempo per trovare le risorse naturali. La quantità di quello che riuscite a trovare diminuisce e questo influenza la vostra nutrizione e di conseguenza il vostro stato di salute. In secondo luogo, quando una foresta si impoverisce, diminuisce anche la conoscenza dell'ecosistema naturale e della biodiversità. E questa conoscenza è fondamentale per la sopravvivenza. And this knowledge is critical for survival. Grazie a Sergio Taxi Milano e grazie a Leonardo da Forlì, ma sono di corsissima. Dario Ricci, cosa fa la Juventus? 54esimo di gioco a Siviglia, ancora 0-0. Juventus che con questo risultato sarebbe prima nel girone, visto anche che il Manchester City è sotto 2-1 in casa col Borussia Mönchengladbach. È stato velocissimo, straordinaria sintesi di Dario Ricci sul risultato al momento della Juventus. Noi ci lasciamo brevemente, no, ci lasciamo proprio e poi ci riaggiorno come sempre alle 22. E vi ricordo, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte con Vittorio che dice: ma si è candidato per diventare presidente, Trump o per dare spettacolo, e poi Enrico per mandarlo a quel paese. Di sicuro vela intolleranza, razzismo, oscurantismo non hanno mai risolto i problemi, li hanno sempre amplificati. A dopo.